versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, alle 16.36 minuti, qui siamo in diretta da Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta e per il Quirinale vi dà direttamente appuntamento domani mattina dalle 10 alle 12, diretta aperta alle vostre telefonate, mentre sarà in corso la mitica quarta votazione in cui bastano i 505 voti. Chiamateci all'800 24 00 24 domani dalle 10 alle 12 per dirci quello che pensate. Vi piace Mattarella? È il presidente scoppiettante, innovativo, giovane, che parla le lingue, digitale, che vi aspettavate? È un eroe perché si è battuto, il suo gesto più eroico è stato quello di battersi a favore del monopolio pubblico televisivo, roba che oggi ho spiegato a un collega straniero e incredulo, diceva: ma scherzi o fai sul serio? Dico sì, questo è il grande suo merito. Naturalmente si batteva contro Berlusconi, però, e questo è un merito non da poco per molti che lo eleggono. Sono passati un po' di anni, però siamo sempre lì, tanto per essere chiari, e come sapete io non difendo Berlusconi, ma però il monopolio televisivo e poi tante altre cose. È finito Nazareno, non è finito, poi ce la farà davvero domani mentre noi parliamo. Comunque, per questo chiamateci domani dalle 10 alle 12, 800 24 00 24 Conte della Belva. Oggi invece un tema concreto, quindi ci rivolgiamo soprattutto a coloro che ci ascoltano e che sono precari dello Stato, poi anche a chi non lo è, ovviamente. Perché ci rivolgiamo a loro? Perché c'è una novità. Questa novità nasce dall'intreccio della vicenda dei 20.000 esuberi delle province, sapete, le province riformate, non abolite, enti di secondo livello, ma con 20.000 esuberi da sistemare. E la novità è una circolare del ministro Madia, il ministro della pubblica amministrazione. Il giornale che più ne ha informato e ha fatto uno scoop stamattina è stato Il Messaggero con il collega Andrea Bassi, e da questa circolare del ministero della pubblica amministrazione si evincono delle novità importanti. Era circolare numero 4/2014 per i precari che fossero interessati a leggerla direttamente. Quali sono queste novità? Io cerco di sintetizzarla, poi abbiamo un ospite al quale ci siamo rivolti per capire qual è la loro reazione. Che cosa dice questa circolare? Si tiene fede all'impegno che aveva assunto il governo, per cui i 20.000 esuberi delle province hanno la priorità nella riassorbimento. Hanno la priorità nel riassorbimento, a netto del fatto che coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione, non quelli della legge Fornero, ma quelli pre-legge Fornero, quindi finestra di come vogliamo chiamarlo? Io lo chiamo privilegio, non so che dire, lo so che c'è una legge che lo consente, però per me è un privilegio, è sbagliato, ma comunque potranno andare in pensione quindi a 61 anni di età e 3 mesi con 36 anni di contributi, quindi non i 66 anni che valgono per noi comuni cittadini oggi, ma netto di coloro che quindi saranno pensionati se con 61 anni e 3 mesi di età e 36 anni di contributi. E di quelli che naturalmente sono anche superiori d'età, in quel caso sono pensionati, al netto di quei 20.000 ce n'erano quasi un po' meno di 1.500 che erano dipendenti dei centri dell'impiego, quelli finiscono nell'Agenzia Nazionale del Jobs Act che dovrà nascere, perché il decreto attuativo ancora non l'ha fatto il governo, ma gli altri hanno, per così dire, un canale prioritario per l'assorbimento, il riassorbimento, innanzitutto nelle regioni e poi nelle altre amministrazioni dello Stato, per esempio quella della giustizia, si è parlato per esempio dei cancellieri nei tribunali, e hanno un canale prioritario al netto però delle assunzioni che fanno parte dei requisiti quantitativi consentiti a ciascuna banca della pubblica amministrazione per coloro che hanno vinto concorsi. Sapete che noi siamo in blocco del turnover nel personale della pubblica amministrazione da anni, come in blocco contrattuale. Allora, questa norma a tutela dei dipendenti della provincia, quindi su quei 20.000 saranno 16.000 circa riassorbiti tra le regioni e altre amministrazioni pubbliche, comportano però due conseguenze. Primo, ce la si farà davvero a riassorbirli tutti? Ecco, su questo la circolare non prende impegni, dice: beh, nel caso in cui le amministrazioni non dovessero riassorbirli, c'è un percorso successivo, e in questo percorso successivo, se rimangono dei lavoratori in esubero, ci sono alla fine due strade per gestirli. La prima è quella di contratti di solidarietà, riduzione delle paghe, in altre parole dei tempi, e se neanche questo bastasse si arriva poi al collocamento in disponibilità, cioè significa 2 anni all'80% dello stipendio e poi il licenziamento, anche se, dice la circolare, questa è un extrema ratio. Altra conseguenza però, con questa scelta, una delle promesse del governo, e cioè quella che anche gli altri precari della pubblica amministrazione, dello Stato, si iniziavano ad assorbire massicciamente nell'anno del Signore 2015, salta. Perché nella circolare si dice che insomma, si sposta l'iniziale assorbimento degli altri precari dal 2016 al 2018. Questa è la sintesi e spero di non aver detto stupidaggini, perché la circolare tecnicamente, vi garantisco, da leggere è abbastanza incomprensibile se non per gli iperaddetti ai lavori. A questo punto però, in attesa che qualcuno di voi, se precario dello Stato o non precario dello Stato, se è un cittadino che pensa sia giusto o meno prepensionarli con criteri diversi della legge Fornero, se sia giusto o meno distinguere tra precari diversi, tra gli esuberi nuovi e i precari precedenti, uno potrebbe anche distinguere dicendo che i precari precedenti hanno più diritto per gli anni accumulati. Però al netto di tutto questo abbiamo con noi, per capire e commentare, sentire la sua opinione, il segretario nazionale della CISL Funzione Pubblica. Torna con noi Giovanni Favarin. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, segretario. Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori. Allora, innanzitutto, la sintesi che ho fatto da quello che avete capito voi della circolare torna oppure no? Eh sì, la sintesi torna e conferma un modo un po' parossistico di questo governo di fare prima una legge, poi con una legge di stabilità cambiarla. Poi dire che alcune competenze regionali, che ricordo sono per legge regionale da cambiare, devono essere fatte entro il 31 marzo, poi prima che le regioni facciano le loro leggi per capire dove si spostano le competenze, i bisogni personali, quindi i nuovi servizi, fa una circolare e in una circolare scrive che si potrebbe usare, come lei ha detto correttamente, i requisiti pre-Fornero non finanziati né in legge di stabilità né bravo, ma io veramente Favarin, in questo momento stavo dicendo le faccio un monumento, perché se lo dico io mi dicono che sono ipercritico del governo, cioè, ma è possibile mai che per circolare si stabiliscano queste cose? Guardate in ascolto, non crediate che vi stiamo raccontando storie, cioè in legge questa cosa qua disciplinata da una circolare, stiamo parlando di un atto amministrativo di ultimo grado rispetto alla fonte di gerarchia del diritto, cioè non è una legge, non è un decreto legge, non è un decreto legislativo, stiamo parlando di una circolare. Ecco, io viva il segretario nazionale della funzione pubblica della CISL, che innanzitutto, prima di entrare nel merito, dice ma qui c'è un enorme problema di formale, di violazione delle fonti del diritto. Sono d'accordo con lei, ecco, al netto di tutto questo, ci dobbiamo abituare a questo, a metterci la legge, cioè il diritto di tutti sotto i piedi. Il diritto di tutti significa esattamente il diritto di coloro di cui si disciplina le possibilità di riassunzione o meno, signori miei, perché qui stiamo parlando anche dell'ipotesi che poi alla fine la gente venga licenziata dopo essere resa esubera. Però, detto tutto questo, primo grande problema, poi vediamo gli altri problemi, Favarin. Ma il primo grande problema riguarda appunto i servizi che non ci sono. Cioè, noi avevamo chiesto al governo che fa una cosa, e se lei avesse cortesia di sentire qualche presidente delle regioni sentirebbe giustamente come dentro lo stesso governo sono imbarazzati, nello stesso partito, rispetto allo spostamento di personale per il quale io regione dovrei fare una legge. Devo dire che solo il Lazio e la Toscana hanno fatto una legge dicendo questo servizio me lo tengo io, quindi faccio mappatura delle competenze, riqualifico il personale e costruisco una nuova rete. Le altre non hanno fatto niente, però tutti aspettano, forse dal primo di luglio, spostato 1 miliardo in meno di dipendenti. Quindi la questione principale che ti lascia sgomenti è che affrontare le competenze delle regioni per legge e con una legge dello Stato e poi intervenire con una circolare significa dire che questo governo forse vuole togliere la competenza di legislazione regionale in alcuni ambiti, e farebbe bene ma siccome non è in grado di farlo in questa fase e siccome non ha deciso quali servizi servono, faccio un esempio soltanto, i servizi per l'impiego, se fatto un job act si farà una legge di ricollocazione con quale personale, se in Germania ci sono 70.000 tra gli 8.000 e questo personale è transitato negli anni, prima erano dello Stato, poi delle regioni, poi delle province, adesso chi li riprende? L'agenzia. Cioè io quello che sono sbalordito è che al di là della querela sulla normativa e il fatto che ci siano migliaia di persone che hanno professionalità e si aspettavano di essere ricollocati in un percorso dove serve il servizio, non rottamati o esodati, perché qualcuno di loro può essere incontento perché va in pensione, ma io da cittadino dico, e se fosse un lavoratore del privato, molti di loro vogliono mettere a frutto la loro professionalità di fronte a regioni inadempienti che non hanno fatto proposte di legge, che non sanno dove metterli e magari i colleghi, il fratello che lavorava in un'azienda è un esodato, cioè è un caos altro che far ripartire il mercato del lavoro e l'ordine delle istituzioni. Io sono veramente sbalordito di come questa abilità ormai solo di rottamare, ma non di innovare e di riqualificare. Ma voi non ne sapevate niente di questa circolare? Cioè non sapevate niente, immagino che vi aspettavate che arrivaste, ma voglio dire dei contenuti. No, noi abbiamo avuto, dopo aver manifestato, occupato province e occupato regioni, stiamo facendo manifestazioni in tutte le regioni per dire, ma siete i datori di lavoro di questi servizi, volete dirci come volete regolamentarli per la comunità in modo che costino meno, siano più efficaci, siano a rete e i modi in cui si possa impiegare bene personale che ha un'enorme esperienza? Quindi a seguito di queste nostre manifestazioni è ripartito questo mitico osservatorio nazionale, una nuova nebulosa, un'invenzione che dovrebbe raccordarsi con gli osservatori regionali per capire cosa far fare a Giovanni Faverin, ex dipendente della provincia, magari agente della polizia provinciale, idee che non hanno. E nel frattempo, finché noi sollecitiamo questo, dicono faremo delle linee guida e abbiamo raccontato come fa una massaia quando va a fare la spesa, che non posso cucinare la pasta se non ho ancora impastato la farina per fare tagliatelle, che forse bisogna prima fare la spesa, decidere, fare una mappatura delle competenze, decidere dove servono, cogliere questa grande occasione per riqualificare i servizi decentrati, andare a vedere se questi enti vanno in dissesto, perché in qualche realtà se la regione non legifera e questo personale rimane in carico alle province, che nel frattempo vede tolti tutte le risorse, 1 miliardo a luglio, significa che c'era un caos. Ma almeno abbiamo il coraggio di dire quel servizio non serviva più, va esternalizzato e i cittadini si arrangiano. Allora io apprezzo anche la sua conclusione, perché la mia idea è che se fai una riforma devi prenderti la responsabilità di dire questo si esternalizza, perché se no degli 8 miliardi di risorse delle province tu le mantieni in piedi, hai tagliato solo i gettoni e le retribuzioni costiere provinciali, ci sono quelli di secondo livello, ma per il resto inizi a tagliargli le risorse, e a quel punto devi dirlo prima e dire per me questo è questo, e quindi anche chi sta in questi servizi andrà fuori. Qua invece si dice io faccio una riforma che abolisce le province, non è vero, inizio poi a togliergli le risorse, esatto, dopodiché però dei dipendenti si dice ma bu ba bo, vedete voi circolare. Ecco ragazzi, non si fa così, qui non è questione di politica, io non sono antifilo, dico solo che è una italianata e anche in questo caso, scusatemi, tutti quelli che mi state mandando gli sms dicendo l'hanno decisa e l'hanno fatta così i dipendenti delle province? O la responsabilità è di qualcun altro, cioè della politica che per anni fa finta di niente, poi per intestarsi riforme le fa coi piedi e poi lascia decine di migliaia di persone nell'interrogativo. Che cosa avverrà di me? E questa è la maniera giusta? Non si tratta di criticare per criticare, semplicemente di spiegarvi quello che succede nella opaca pubblica amministrazione italiana, che resta opaca anche quando le riforme si fanno apparentemente in maniera sfolgorante, rapidissima e per risolvere i problemi, ma in realtà le si fa con lo stesso criterio, con però l'aggravio che a quel punto ci vanno di mezzo migliaia e migliaia e migliaia di persone, come quando scoprimmo gli esodati solo dopo la riforma delle pensioni. La la versione di Oscar. Eccoci qua, stiamo parlando di questa circolare di cui sul Messaggero trovate gli approfondimenti del ministro Madia, canale prioritario confermato per quelli tra i 20.000, saranno più o meno 16.000 degli esuberi delle province riformate ma non abolite, che non possono essere prepensionate con i criteri pre-legge Fornero. Però, però a questo punto andiamo anche all'altro problema, Giovanni Favarini, cioè il governo aveva annunciato, si era intestato con moltissime interviste, cose eccetera eccetera, il fatto che cominciava subito l'assunzione a fette, ma del resto degli ingentissimi precari della pubblica amministrazione. Quindi la circolare si capisce che la cosa slitta in questa questione rispetto ai colleghi delle province. Noi avevamo protestato proprio gli ultimi giorni dell'anno, c'era stata l'assicurazione, sempre con il tweet, perché qui il nuovo modo di comunicare o di fare amministrazione è un tweet, che sarebbero stati salvati, e fu messa nel decreto di stabilità. Però la questione anche qui va affrontata come i lavoratori e le loro famiglie, che hanno prestato servizio in enti che hanno avuto diminuzione del personale, cosa dovrebbero dire rispetto a una compagine governativa. Stiamo parlando di un pubblico impiego che ha già perso 400.000 dipendenti negli ultimi 10 anni, che ne perderà altri 48.000 nei prossimi 4 anni se il governo rimarrà al governo di Renzi, e quindi è l'occasione di una riorganizzazione. In questa riorganizzazione il governo dice ci sarà posto per terminare questa brutta cosa, questa bolla della precarietà che sembra sia a carico dei sindacati, la bolla della precarietà, non di chi ha fatto assunzioni. Da una parte ho il blocco delle assunzioni, dall'altra faccio finta che temporaneamente, certo, con forme diverse assumo delle, certo, persone. Nel frattempo tutte queste professionalità ci sono, in alcune realtà addirittura sostituiscono da tempo 3-4 persone in un ufficio di 5, e quindi hanno maturato una competenza come lavoratori che lavorano in un service esterno. E quindi il percorso di stabilizzazione, cose molto semplici fatte con governi diversi, dicendo quanti soldi ho per stabilizzare, in che tempo lo faccio, con quali requisiti. Con questo caos aggiuntivo tra un esodato, un prepensionato con i criteri Fornero, uno che non sa se andrà alla giustizia con titolo di priorità, ma con quale professionalità? Ah, perché no, certo, anche perché non si capisce quali, li facciamo tutti cancellieri senza... Bravo. Che senso ha? No, non voglio dire, ecco, giustamente lei diceva, se uno è un agente di polizia provinciale diventa cancelliere in tribunale, è la stessa cosa. È chiaro che il cittadino immagina, no, secondo me ha ragione. Sentiamo come la pensa Angelo da Latina, prego Angelo. Buonasera. Gianino. Buonasera. Senta, io seguo la trasmissione in macchina, chiamo più per uno sfogo personale, devo dire la verità. Io sono uno statale da circa 15 anni e sono giunto a questa convinzione che purtroppo la pubblica amministrazione oggi paga decenni di gestione come se fosse stato un ammortizzatore sociale. Sì. Bene. Quindi oggi a me dispiace, perché ovviamente sono colleghi, ripeto, siamo tutti nella pubblica amministrazione. Però oggi noi ci ritroviamo con i precari, con queste riorganizzazioni che oggi interessano anche il mio ministero, perché per anni, e devo dire purtroppo, mi dispiace che c'è lì anche come ospite Faveri, purtroppo anche con l'avallo delle organizzazioni sindacali, per anni nella pubblica amministrazione sono state inserite persone che forse non erano così necessarie. Oggi ne paghiamo le conseguenze. Però aspetti Angelo, io difendo un fatto, che poi alla fine a deciderlo e a fare gli atti necessari per assumere sono i politici. È ovvio che il sindacato che cosa vuole che le dica? Non le assumeteli? No, però poi negli anni io la vivo anche dall'interno, vedo difendere certe posizioni che... Questo lo capisco. E adesso dice viene un red rationem e purtroppo ecco che cosa succede. Sentiamo Bruno da Roma. Bruno, prego. Buongiorno. Senta, una cosa, io penso che il problema dell'Italia più che la politica è l'informazione, che è veramente una cosa indegna proprio. Cioè non c'è un'informazione che sia completa, ma non completa in senso di tutto, ma dell'argomento. Cioè voglio dire, prendiamo le province. Sì. Fino adesso le province, no, è una finta, abolite, poi si scopre e non serve a niente, non si tagliano i soldi, poi si scopre che, a parte i soldi dei politici, che non è che sono pochi, ci sono pure 20.000 persone in esubero, cioè vuol dire che vengono fuori da una riforma, che non servono più, vanno riciclati. Quindi questa riforma delle province, alla fine a qualche cosa serve o no? Questo bisogna dire. se serve, perché se ci sono 20.000 esuberi più o qualche migliaio di politici che non prendono più i soldi, qualche cosa è stato fatto o no? Bruno, senta, siccome qui ce ne siamo occupati tante volte, a lei basta qualche cosa? Può essere, può essere che a lei basti qualche cosa. A me, dire che sono abolite, quando non sono abolite, perché diventano enti di secondo grado, primo. Secondo, senza intervenire, visto che c'è una riforma della Costituzione aperta, lei lo sa, no? Sulle competenze delle regioni, ma nel frattempo mettendo anche 10 grandi aree metropolitane, senza mettere insieme i comuni, fare della provincia un ente di secondo livello, ma continuando a tenere delle competenze, dicendo però che poi sono le regioni che devono risolvere il problema, io, come ho detto e ripetuto, non la considero una buona riforma. Dopodiché, se lei dice qualcosa si è fatto, certo che sì, ma come si vede, fonte di altri problemi. Mentre invece, visto che si mette le mani nella Costituzione, inizia a dire fino a 15.000 comuni li accorpiamo, uno, due, diamo le risorse di autonomia finanziaria ai comuni, chiediamo a quel punto, non facciamo la contrattazione annuale ogni anno, le regioni facciamogli fare solo la programmazione e non la gestione, e a quel punto vediamo anche la provincia. Questa per me è una buona riforma, ripeto da anni. Può essere che lei dica che siamo colpevoli noi. In ogni caso, grazie a Giovanni Faverin e solidarietà agli esodati delle province che continueranno a vivere.